Sino dos. Buongiorno, benvenuti a bordo del treno 22743. Il treno fermerà a Vespri, Palazzo Reale Orléans, Palermo Notar Bartolo, Francia, San Lorenzo Colli, Tommaso Natale, Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Piraineto e arriverà a Punta Raisi alle ore 10:48. Trenitalia vi augura buon viaggio. Good morning. Welcome on board the 22743 train. The train will stop in Vespri, Palazzo Reale Orléans, Palermo Notar Bartolo, Francia, San Lorenzo Colli, Tommaso Natale, Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Piraineto. I will arrive Punta Raisi at 10:48. Trenitalia wishes you a pleasant journey. now arriving in Vespi. Ferma a parir. Ma le sigo un altro che fa davvero ora. partenza dal binario 5. Se usato da per via, termini inglese, Monte Maggiore, Torre Padova, Paragola, Gargano e Agrigento, Pausa. Thank you. a prendere. Che ha fatto la segnaletta con loro? Come si scuola un motore nella piazza? No, ma è un viso gioviale. Se viene calore. Poi non ce l'ho più. È la pia. Per esempio, chi sta a me a pianta pago? Questo signore mi dice se fa dire. Avanti ci sono i contenitori, più avanti. Poi tu sei. Cucino più, i contenitori sono più avanti. Cucino Pio, i contenitori sono più avanti. È una domanda. Ma voi sì. Aspettiamo. Volete una bella? Sì, contenitore chiamando, un po'. Legge, legge per... No, nel senso che tu dove la questa mattina. Ma posso aprire, eh? Posso aprirla? La ringrazio. Beh, non sei più. Ma io non c'è stato da fare, non lo tenete. Non vedevo che te ne ha vissuto da fare. No, non c'è da fare allora. Posso c'è un bicchiere? Io sono stato da vissuto con... Arrivederci, patrano. Ah, papà. Questa è... Massia Rossa la mangia pure, tu se non sono mai grande, ma se la mangia non ci può entrare. Chissà, non è serio. La saluta. Non c'è, c'è un altro, lui non c'è. Ma c'è dato perché uno, se mi ha giocato i cari. Per giocare i cari. E a giocare un papà, c'è là. Forza che finiamo, ragazzi. Non si accetta. No, fuori di qua ti posso offrire io. Volevo cominciare, ma cosa posso offrire? Troppo, è la mia vita, non lo sai. Cioè, tu non vai a schiacciare. Se ne dai, io segno. E tu venga a tuo volto. Questo non è un problema, ti posso dare anche 100 euro per prendere due bici. Ma sai, io te la posso dare. Un bici proprio, se chi c'è, che non vado pure i piccioli. Basta, la posso bici. Grazie. Grazie. Non te le posso dare. Quando li hai me li dai? No, non te li vengo a chiedere. No, non te li chiedo. Non, no. Non li voglio. Che bene il cliente che ha. Ma che l'hai andata prima. Ma visto che mi amo. Sì. Tuo compadre c'è nero, tuo compadre. Io sono ancora qua. Io compadre. Ricci. Cava da giù. Ricci. È tutto campato, ma cava da giù. Campato tutto. Ed è mio compadre. Ed è mio compadre. Tuo compadre. Non tutto tocca lasciare. No, no, non tocca mangiare. Fino alle 3. 8 di mattina. 8 di mattina. Ce l'ho come. A lui che è meglio essere così. Amico, è meglio. Io sono uno rispondo. Tutto parente è pari. Perché sta a me? Chi posso sapere? No, non io. E ce l'hai, da cui sono non puoi dare. Non vale più neanche. Ci fanno. Oh, come se fa? Paolo fa mal domani. Paolo fa mal domani. Penso, ma uno che fuma. Ah, c'è prima, c'è niente per pesare. Cucciato qua. Se giocherà te. Oh. No. Ah. Anche un momento a chi sta, ci siamo andando nel 92. Allora, ma posso conducere, che è una mentira di fare. Dimmi una cosa, la scorsa di quello scorso. Ah, c'è niente. Va bene, va bene. Ok, ok, ciao. Ciao, se c'è Zavaglio, mi ha picchiato. Io? Però mi montava a fare poi scelte, ma chi non te lì? Quella bella, quella la signora. Che fila veniva. No, non mi permette di chiamare persone. Non c'ho più per tutto, non c'ho, hai ragione, hai ragione, chiedo scusa, chiedo scusa. Chiedo scusa! Perché non diceva, non ne stava che cosa. Ma solo. No, va bene. Sono tonno nelle 50. Oggi vinci 3-1 per Palermo. Prima Ruccetteo c'è un palazzo auro, davanti su palazzo auro c'è la cipolla sportiva, davanti la cipolla sportiva. Ma infatti c'è parcheggiato Ruccetteo, non parcheggio Ruccetteo praticamente, però in direzione il suo palazzo. Quindi tu vai, allora prima a Piazza De Gasperi, che anche non c'è la traccia da un bacio giù, cammina a destra. Vero, non bello. Allora, ma poi quello che ci dice non è che il ragazzo si è dato la fuga. Io non vado più, vieni qua. Vieni qua, papà, vieni, aspetta, prima devo lasciare la pizza. Papi! Che? Tu la pizza! Mamma! Tu ce l'hai la pizza? Aspetta, prima la fare. Devo prevedere il cavallo. Un cavallo. Thank you. andate là. Ciao la roba. Fragole. Çok büyük ya. Aptibiz var öyle. Ya ayrı şeyler. Thank you. Sí, ¿no? anni poveracci hanno fatto.